che rompi coglioni. Provi a telefonare, che c'è tempo sotto controllo. Provi, roscionando. Poi dici che non sei tu che rompi coglioni. Brutto froscio. Qua, magari siamo maturati.